24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Sono sconvolto perché vedere una persona seria come il procuratore di Roma parlare di mafia, essenzialmente ha parlato di mafia, ha utilizzato questa parola, ha utilizzato questa, più che questa parola, questa ipotesi di reato nel contestare agli indagati, è un qualcosa che mi colpisce molto. Credo che i politici romani debbano fare una riflessione profonda su quello che sta accadendo in quella realtà. Non mi pare di poter dire che alcuni del PD romano possano tirarsene fuori allegramente. Per questo oggi ho accolto la disponibilità del segretario del PD romano Cosentino, che è una persona seria, a fare un passo indietro, e ho proposto il commissariamento del PD di Roma nella persona di Matteo Orfini, che è il presidente del partito. Ma era il presidente del Consiglio Renzi ieri sera a Bersaglio Mobile sulla 7. Renzi ha parlato di tutto, di Roma naturalmente, avete sentito, dei suoi problemi enormi esplosi sotto gli occhi di tutti, con una violenza, una brutalità che lasciano sbalorditi, perché quando si sente dire che il traffico dei migranti e dei Rom rende più del traffico della droga, si capisce che siamo oltre la barbarie. Ci occuperemo anche di questo a modo nostro, partendo dalla storia della banda della Magliana, che è all'origine di quello che accade oggi. Lo faremo con chi c'era e se n'è andato, Umberto Croppi, autore del libro Romanzo Comunale, intervistato da Marina Milone. Ma intanto Renzi ha parlato anche dell'acciaio, della chiusura, seppure in modo diverso, di tre vicende chiave per l'industria italiana: quella di Terni, di Piombino, dell'Ilva di Taranto. Ecco, senatore Massimo Mucchetti, buongiorno, presidente della Commissione Industria del Senato. Il settore dell'acciaio vale 34 miliardi di fatturato, 30.000 lavoratori. Sembra improvvisamente, quasi miracolosamente, rinascere. Il governo si è svegliato, senatore Mucchetti? Ma a Piombino e a Terni sono stati raggiunti due accordi promettenti, con ancora delle incognite, specialmente su Terni, ma che, data la situazione, vanno salutati, diciamo così, senza licenziamenti. Bisogna vedere poi la tenuta nel tempo di queste iniziative. Certo. In Italia spesso si cerca di non guardare al futuro. Viceversa, per Taranto siamo ancora in altissimo mare, ecco, ma sono stati buttati tantissimi soldi nel passato. Adesso si è presa comunque una direzione giusta? Ma adesso non si è presa nessuna direzione in questo momento. Il governo semplicemente ha detto: se non ci saranno offerte di intervento private convincenti, lo Stato potrebbe intervenire per un periodo, 2 o 3 anni, e poi ricollocare sul mercato l'Ilva. Di questo ne parliamo, però volevo sapere una cosa prima di parlare di questo, di una ipotesi di intervento dello Stato. Per l'Ilva però non bastava in qualche modo tenere il commissario Enrico Bondi e dargli la possibilità di utilizzare quel 1.300.000.000 dei Riva che sono bloccati e nella disponibilità della procura? Assolutamente sì, questa è l'opinione che ancora a suo tempo la Commissione Industria del Senato, ma per questo glielo chiedo, non venne ascoltata. Vabbè, allora, non è mai troppo tardi. Esattamente, non è mai troppo tardi, anche se perdere 6 mesi in un'industria come l'Ilva significa buttare centinaia di milioni. E quindi tenere Bondi e usare quei soldi sarebbe stata la strada maestra, secondo lei, se ho capito bene? Ma io dico tenere Bondi Bondi per primo, che è persona diritta, non si impiccherebbe a se stesso, e quindi, certo, se non fosse per una qualche ragione risultato convincente Bondi, non è questo il mio parere, ma ammettiamolo, si sarebbe dovuto scegliere un commissario, tra virgolette, industriale, un manager capace di gestire l'azienda, dare un piano industriale magari migliore di quello di Bondi, che tuttavia oggi mi pare essere confermato dalle scelte industriali di quei privati siderurgici del nord che 6-7 mesi fa l'avevano ferocemente criticato, convincendo un governo incapace di leggere con i propri occhiali la realtà, che quel piano era sbagliato. Oggi quel piano è invece tecnologicamente, si rivela assai interessante. Molto però interessante, detto questo, come dire, è per quello che dico, non siamo, cioè, è stata manifestata una volontà generale, sì, generica, certo, da parte del governo, che va bene, perché certo, può essere la premessa di una svolta positiva, ecco, però la svolta poi bisogna fare. Ecco, ma per esempio i soldi, la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, come dovrebbe intervenire? Ma la BEI può fare un mutuo, e di questo se ne parlava già tanti mesi fa, e mi fa piacere che il commissario Gnudi, persona peraltro stimabile, con delle competenze diverse da altri, è stato chiamato per vendere, non per gestire per 2 o 3 anni l'azienda, si persegua anche questa cosa, però mi faccia fare 2 conti, certo. 1,2 miliardi sono i soldi che, grazie all'iniziativa che prese il Senato, diciamo forzando il governo scettico in materia, possono arrivare grazie alla Procura di Milano. È capitale questo, che poi va usato in modo intelligente, perché c'è un modo obbligato, che devi usarlo soltanto per i rifacimenti, diciamo, di tipo ambientale, certo, cioè per finanziare il risanamento dell'ambiente a Taranto. Il risanamento dell'ambiente a Taranto, perché questo è quello che abbiamo scritto nella legge, che era onesto e giusto fare. Non dimentichiamo che oggi lo Stato è gestore, ma che la proprietà è tuttora dei Riva, e per un 10% in influenza nella gestione degli Amenduni. Quindi bisogna tenere presente anche questo aspetto. Poi dopo l'altro punto, che l'ILVA, la gente si dimentica, bisognerebbe sempre ricordarsi di andare a leggere le carte, ha un antico contenzioso con la Fintecna, che è un nome che dice poco, ma era, diciamo così, la sopravvivenza dell'IRI, che adesso è in Cassa Depositi e Prestiti. La Fintecna vanta, diciamo così, chiede dei soldi, sono tanti anni che stanno litigando, se si andasse a una qualche forma di composizione in materia potrebbe essere qualche altro centinaio di milioni che entra, ecco, diciamo non tanto come versamento ma come capitale. Ecco, la BEI ci mette un mutuo. Insomma, a questo punto anche le banche italiane possono prendersi, certo, un altro pezzettino di rischio, perché cambia il contesto. Ecco, ma volevo chiederle una cosa. Torniamo, lo stava cominciando a dire prima lei, torniamo all'acciaio di Stato, così? Ma in questo caso torniamo provvisoriamente a un acciaio pubblico, perché pubblico, il capitalismo privato italiano ha fallito. In ma è un bene, è un bene, non è un rischio che se uno comincia di lì poi si ricomincia? Ma a parte che in tutta una serie di settori l'intervento privato non è andato bene, in altri è andato benissimo. Quindi insomma torniamo un pochino a più Stato e meno mercato. Senza pregiudizi, questo voglio dire. C'è una formula: mercato fin dove è possibile, Stato quando necessario. Quando il mercato non risolve, o ci teniamo il problema non risolto e quindi con tutti i danni, o facciamo intervenire lo Stato. Poi una volta che lo Stato avrà risolto, sotto l'occhio comunque di un'opinione pubblica, dei giornali, di Radio 24, del Senato, della Camera, che staranno lì con i fucili spianati, alla fine lo Stato rivenderà, l'ha già fatto. Ecco, senatore Mucchetti, volevo dire, Renzi ha detto ieri sera a Bersaglio Mobile, a Mentana, che a Palazzo Chigi, a discutere delle soluzioni insieme a Gnudi e gli altri, c'era anche Guerra, l'ex amministratore delegato di Luxottica, che è diventato consigliere speciale gratuito per le politiche industriali di Renzi. È una buona scelta l'idea di avere un grande manager che dedica un tempo della sua vita gratuitamente a consigliare il governo? Ma guardi, io penso che Guerra sia persona che conosco, è una persona di grandissima qualità, sì, è un grande manager che ha gestito un gruppo multinazionale come Luxottica, settore occhialeria. Chiamarlo come consigliere è una cosa ottima. Io ho una mia idea molto più semplicistica, sì, se lei mi consentirà, ed è, certo, che a ciascuno va fatto fare il proprio mestiere. Esatto. E allora, se uno è un grande manager, va benissimo come consigliere, ci si parla, però se questo non è un trovarsi 4 volte al bar a parlare di cose, ma è un lavoro, sì, ma è un lavoro, allora io direi che se abbiamo un'Ilva da salvare, e abbiamo un grande manager che si mette a disposizione dello Stato. Lei dice mettiamolo all'Ilva. Ma mettiamolo all'Ilva e paghiamolo anche, perché chi lavora, se lavora, va pagato il giusto, senza sprechi. Beh, esiste anche la possibilità di avere un tempo della propria vita in cui uno che ha guadagnato tanto fa il civil servant gratuitamente. Ma a disposizione, sì, ma voglio dire, società. Ma però stiamo attenti su queste cose qui, perché rischiano anche di essere un po' demagogiche. Una volta, quando il servizio politico non era remunerato, chi lo faceva il servizio politico? Quindi la democrazia presuppone che chi presta servizio per lo Stato abbia una remunerazione non esagerata, perché ha la soddisfazione di servire il pubblico. Senta, e se poi dopo lui personalmente ci vuole rinunciare, gli faremo anche un applauso. Senatore Mucchetti, ancora una cosa: a Piombino anche lì si è trovata una soluzione con un investitore straniero. Gli algerini sono un buon partner? Ma guardi, qui vale la regola inglese, no? Se il budino è buono, prima bisogna mangiarlo e il giorno dopo vedi se hai mal di pancia o se stai sereno, come direbbe il premier. Vabbè, lo vedremo dopo. Allora. Sono un partner che ha messo dei soldi. Certo, quindi. E soldi che ha, ecco. Sull'Ilva è già molto, se lei soldi va a vedere, è già molto, mi sembra una cosa interessante, un bel tema, stiamo parlando di capitalisti, mica di benefattori. All'Ilva ho l'impressione che tutti quelli che si sono affacciati a parlarne senza mai fare un'offerta ne abbiano concreta, parlato e basta, ne abbiano cioè non hanno mai fatto vedere un mezzo assegno. Ecco, senatore Mucchetti, ancora un'ultima cosa. Il ministro Guidi al Parlamento aveva detto che il problema della siderurgia in Italia è la concorrenza sleale dei competitor asiatici. È vero? Ma direi che è un problema vero in una misura limitata, nel senso che i problemi della siderurgia italiana sono che sta in un'Italia che è in recessione e quindi c'è una domanda calante. Sta nel fatto che in una misura superiore a tutto il resto del mondo civile è basata sulla tecnologia del forno elettrico che usa rottame anziché minerale di ferro, che si fa sempre più scarso, di qualità sempre peggiore e quindi sempre più costoso. Tanto è vero che i privati... Insomma, bisogna specializzare le produzioni. Bisogna migliorare. Bisogna fare un made in Italy dell'acciaio. C'è anche la concorrenza che viene da via. Però, insomma, abbiamo tutto per vincere. Senatore Mucchetti, c'è Mario Secchi che vuole farle una domanda. Buongiorno, Mucchetti. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Secca, anche provocatoria, se vuole. La rifarebbe Lini? Io sì. Non la chiamerei Iri, perché chiamiamola in un altro modo. No, sono d'accordo con Mucchetti. Perché molti avrebbero delle riserve senza aver mai studiato che la cosa storia ha fatto. Esatto. C'è anche Pietrangelo Buttafuoco, una domanda. Sì, senatore, sono fermo a quello che ha detto prima. A Taranto siamo in alto mare. Che significa? Significa che in questo momento Taranto sta esaurendo le linee di credito, peraltro assai limitate, con cui pagare gli stipendi. Cioè, se non intervengono fatti nuovi, sono in forse gli stipendi, le tredicesime, quelle robe lì. Parlo quindi di robe basiche. L'anno prossimo deve rifare, perché ha finito la sua vita utile, il più grande altoforno d'Europa, che è l'altoforno numero 5. E quindi lo deve fermare e ricostruire. Quindi ci vogliono soldi. Ci vogliono soldi in questo momento. Va bene, non ci sono quelli eventuali della BEI, no? E delle banche italiane. Grazie, grazie senatore Mucchetti. Alla prossima volta. 800 24 00 24 il numero verde. 238 6666. L'SMS, non riesco a impararlo a memoria, è grave. No. Diciamo che il mondo dell'acciaio in Italia però è fatto di giganti, ma è fatto anche di piccoli imprenditori che dipendono dai giganti e tremano e hanno paura di non farcela. Uno di loro, esattamente un anno fa, Giorgio Baravelli, ha scritto una lettera al direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napolitano, lettera che oggi sta nel libro Viaggio in Italia. Ecco, signor Baravelli, lei ha scritto una cosa che ci ha colpito, che non passerà il testimone ai suoi figli, non arriverà alla terza generazione. Perché? Perché purtroppo quelle ragioni che hanno spinto i miei genitori in primi, io e le mie sorelle dopo, a portare avanti queste attività oggi non ci sono più. Ma voi cosa producete? Abbiamo due aziende attive nel settore siderurgico, un'azienda che si occupa di trasformazione di COIS di acciaio. COIS cos'è? Il COIS è la materia prima fondamentalmente prodotta dall'ILVA. E dove avete gli stabilimenti lì? Noi abbiamo gli stabilimenti a Bologna, siamo un centro servizi, compriamo questa materia prima, questi COIS prodotti dall'ILVA e da altri produttori, li trasformiamo e li rendiamo fruibili agli utilizzatori finali, quindi aziende che fanno, diciamo, i più svariati prodotti, dai mobili metallici alle scaffalature metalliche, componenti per l'automobile. Quindi per voi la crisi non è tanto quella dell'ILVA, ma quella del mercato immobiliare che non tira. Assolutamente, la crisi nostra è la crisi dell'utilizzo dell'acciaio in Italia. Gli interi settori che, come per esempio tutto il comparto legato all'edilizia, che è storicamente un forte fruitore d'acciaio, i consumi reali sono crollati e di conseguenza la nostra attività ne ha risentito. Ma in questo senso è purtroppo un problema di tante piccole imprese. Ma se l'ILVA si salva, come forse è possibile, vi salverete anche voi? No, non necessariamente. Perché? L'ILVA è una grande realtà del panorama industriale italiano, non c'è dubbio. È un grande produttore e quindi io credo che l'ILVA, sinceramente, qui parlo da cittadino e da siderurgico, l'ILVA vada assolutissimamente salvata perché sarebbe una perdita grave per il sistema. Se si salva l'ILVA non vi salvate voi per forza. No, non è detto, perché il nostro ruolo, che è un ruolo di cuscinetto tra la produzione e l'utilizzo, oggi siamo schiacciati sempre di più dai produttori stessi che sempre di più verticalizzano a valle il loro prodotto. Ma vi schiacciano di più i produttori o le tasse? Diciamo che sono due cose diverse. Dal punto di vista del lavoro, sicuramente i produttori oggi stanno andando sempre di più a valle, le tasse, la burocrazia sono qualcosa che credo esuli dalla siderurgia, ma che vada a colpire tutto ma il senta, settore. Dottor Baravelli, però il Presidente del Consiglio aveva detto che mettere in sicurezza le scuole era un atto primario del suo governo. Sì. Se fosse un'azione reale, che si fa? Per voi va meglio? Senta, sicuramente tutto quello che comporta movimento, diciamo, dal punto di vista economico, sicuramente ci aiuta. Come le dicevo prima, l'edilizia è uno dei grandi comparti utilizzatori d'acciaio, quindi è chiaro che una ripresa dell'edilizia aiuti i consumi e in pratica ci aiuterebbe. Questo sicuramente come comparto. Ma lei vede nero? No, parlo di lei. No, sinceramente faccio fatica a essere ottimista. Quindi suo figlio non lavorerà nella sua azienda? Attualmente no, se le cose non cambiano, no. Quanti anni ha? 28 anni. E cosa fa? E si occupa, lavora presso una software house in un settore completamente diverso. Quindi la sua prospettiva, secondo lei, è chiudere l'azienda? Oggi il nostro è un settore non vi conviene più farlo. Non conviene più farlo. Ma perché siete troppo piccoli? Probabilmente anche, sicuramente essendo troppo piccoli, diciamo, veniamo fagocitati da questi grossi gruppi. Basta vedere la storia dell'acciaio. L'acciaio è quanto di più globalizzato c'è oggi per il mondo. Ormai la produzione è dominata da pochissime grosse multinazionali che sempre di più verticalizzano a valle il loro prodotto. La nostra funzione, che è una funzione fatta di servizio, di legame col territorio, è sempre più schiacciata dal peso di questi grandi colossi. Una cosa importante da capire sia questa: per tanti settori e per tante attività, questo non è una crisi, questo è un cambio proprio di regole economiche. C'è stata la delocalizzazione, che è figlia della globalizzazione. Le aziende che sono uscite difficilmente torneranno. Dunque i piccoli sono in crisi, forse non ce la fanno, almeno alcuni, ma c'è chi pensa al futuro della siderurgia e lo pensa in una prospettiva diversa. Emanuele Morandi è presidente di Siderweb, una piattaforma che fa studi sulla siderurgia e organizza la fiera della filiera dell'acciaio. La prossima sarà a maggio. Dottor Morandi, qual è dal suo punto di vista il futuro dell'acciaio in Italia? Il futuro dell'acciaio in Italia è un po' il futuro dei settori utilizzatori d'acciaio in Italia. Ma c'è un futuro intanto per l'acciaio in Italia? Sicuramente l'acciaio, un acciaio probabilmente diverso da quello che stiamo producendo adesso, più un acciaio di qualità, spostandoci dalle commodity, dal prodotto indifferenziato dove gli agguerriti competitor stranieri ci battono comunque, su un acciaio invece dove possiamo metterci dentro tutto il nostro know-how, le nostre capacità, e ne abbiamo veramente, veramente tante. Ecco, dottor Morandi, ma i piccoli sono destinati a scomparire? I produttori devono un attimino aggregarsi e concentrarsi. Quindi devono aggregarsi, per non sparire devono aggregarsi. Devono aggregarsi, ecco, per avere delle dimensioni per cui poter competere, soprattutto in temi della ricerca, dello sviluppo, per nuovi materiali, per tutto quello che dobbiamo fare per internazionalizzarci e per competere sui mercati internazionali. A maggio, alla sua fiera d'acciaio, parteciperà anche l'Ilva, quindi la salvezza dell'Ilva secondo lei è sicura, è garantita? L'Ilva ha sicuramente un futuro. Ma sarà pubblica o privata l'Ilva nel futuro? Mi piacerebbe che fosse un'azienda in futuro soprattutto efficiente, in grado di rispondere ai bisogni veri, ripeto, di un mercato completamente diverso. Ma è importante che sia italiana nell'azionariato oppure no? Essendo italiano mi piacerebbe molto che potessero esserci, voglio dire, degli attori italiani, ma in questo momento, un po' come per l'Alitalia o per altre attività, l'importante è che si crei un prodotto che risponda alle esigenze del consumatore del futuro, e anche perché parlare di acciaio bresciano, di acciaio italiano è importante, ma in questo momento dobbiamo riferirci almeno un comparto che è almeno l'Europa, per cui non esiste più la localizzazione. Deve essere acciaio europeo, quindi. Esatto, almeno anche perché l'Europa è molto importante, noi nasciamo, l'Europa nasce proprio dalla cieca, da un grande atto di solidarietà e non dall'Europa dei pregiudizi e dell'austerità che stiamo vivendo adesso. Ultima cosa, dottor Morandi, per far fronte alla globalizzazione, il settore siderurgico italiano su che cosa deve puntare? Lei un po' l'ha detto, sulla qualità, quale qualità è specifica in Italia? Diciamo che noi abbiamo delle grandi capacità, le turbine, le pale eoliche, ma gli stessi tubi per la senza saldatura che vengono utilizzati per estrarre lo shale gas, quindi per l'oil and gas, sono tutti prodotti italiani, per cui il futuro sarà per un tipo di acciaio che riuscirà a rispondere alle esigenze qualitative rispetto all'esigenza appunto di settori che sono completamente cambiati. Per reggere la concorrenza bisogna investire in tecnologia, ovviamente. Chi lo fa? Ci sono aziende tecnologicamente molto avanzate. Me ne dice qualcuna? Sto pensando alla nostra Arvedi, che ha creato questo impianto RSP molto molto molto innovativo che tutto il mondo ci invidia. Sto pensando alla Ori di Brescia, sto pensando ad aziende che soprattutto il settore di tutte le forge nel bresciano, che sono veramente uniche nel loro settore. Ci sono, diciamo, delle nicchie sulle quali possiamo veramente puntare. Bene. E dire la nostra anche per il futuro. 800240024, numero verde 349-238-6666, l'SMS. Mix 24. Vette nell'occhio tuo ed ostetti, caloci non mazzai capire, fila di ferro e zucchero, la faccio una bannera, ogni ci batti sole, sole di primavera, bemmiato sin addea. Cos'è questa? Una dea sicana, grande richiesta, perché mi è stata richiesta da tantissimi, da tantissimi, fantastico. Tutti, ma soprattutto perché ormai voi... sei il nostro DJ preferito. No, ma c'è anche l'occasione, perché quella che è passata, che se n'è andata via, è stata la notte di Santa Barbara, e oggi è la festa di Santa Barbara, e siccome nessuno dei fedeli d'amore, Dante alla mano e nel cuore ha chiuso occhio, e siccome tutti sono stati per strada, per i vicoli, sotto alle finestre a seminare briciole, frammenti, pezzetti e dolcezze da far germogliare coi sogni, i sorrisi, nella notte di Santa Barbara, per la festa di Santa Barbara, coccio d'amore a grande richiesta. Medio tempo a Chiana, io vengo appresso a te, chiudi di poesia, che fa poesiario mondo sano. Mario, nella tua pentola oggi notizie esplosive? Energetico. Che cosa hanno in testa? Hanno in testa il fatto che si va esaurendo. Versailles, Suez, 1973, guerra del Golfo, guerra del Golfo 2. Questo è uno scontro mortale. Così quando vi sveglierete, finalmente, loro vi avranno prosciugati e voi avrete sperperato la più grossa risorsa naturale della Terra. Olè, petrolio, questo era un pezzo fantastico di Siriana, grande film, io consiglio sempre di andarlo a vedere, o, anzi, di noleggiarlo in questo caso. E Giovanni, oro nero, oro vero, banche, petrolio, siamo a un passaggio cruciale. Non si sa più qual giorni. È il vero oro. Beh, il vero oro sarebbe quello di distribuire ricchezza a chi non ne ha, ma insomma capisco che sia difficile per molti comprendere questo piccolo particolare. Detto questo, oggi c'è una riunione decisiva della Banca Centrale Europea, l'avete sentito anche nel giornale radio prima, eccetera, prima volta nella nuova sede della BCE, due torri mica male a Francoforte. Chissà se ne avevano veramente bisogno di quella sede, ma vabbè, lasciamo stare. Non penso che Draghi possa fare un quantitative easing all'americana, cioè comprare titoli di Stato in maniera massiccia e protrarre per lungo tempo un programma del genere. Vediamo che cosa decidono. Lui ha una forte opposizione interna dei tedeschi e soprattutto della Sabin, di cui adesso non ricordo più il cognome, che per me è quasi impronunciabile in tedesco. Però una merkeliana di ferro che in questi giorni ha criticato parecchio. E quindi dobbiamo solo aspettare qualche ora per capire che cosa succede sulla banca centrale. Intanto dobbiamo combinare tutti gli effetti delle cose che stanno succedendo, quindi il petrolio va tenuto costantemente d'occhio, perché il Brent è crollato del 40% in 6 mesi, siamo alla quotazione minima degli ultimi 5 anni, e tutto questo uno direbbe fantastico. No, fantastico proprio niente, perché l'economia è tutta collegata e connessa in questo momento. Quindi ci sono degli effetti perversi. Primo, non c'è nessun beneficio dal punto di vista del consumatore di carburanti, perché tanto il prezzo della benzina è fatto da fisco sostanzialmente, quindi il problema non c'è dal lato consumatore, o meglio resta. E secondo, il crollo ha un impatto enorme sui paesi produttori OPEC, stimato in oltre 300 miliardi di dollari di mancati ricavi, e uno direbbe vabbè, chi se ne frega, tanto non guadagnano loro. E no, cari amici, perché l'economia è connessa e i fondi sovrani di questi paesi stavano e stanno tutti investendo qua da noi, in Europa e in Italia. Significa che 300 miliardi se ne vanno in fumo e non saranno investiti. Per la prima volta negli ultimi 20 anni i paesi produttori OPEC leveranno investimenti e non metteranno denaro fresco in Occidente. Signori, preparatevi, allacciate le cinture, perché secondo me l'atterraggio nella realtà non sarà affatto morbido. Io non creo niente, io possecco e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. Vedremo. Fatene sempre tesoro, questo è Gordon Gekko, una sceneggiatura fantastica che è sempre uno spettacolo ascoltare. E ho ancora una bollicina, la vuoi, vai, Giovanni? Senti qua. Qui Houston, potete ripetere? Houston, abbiamo un problema. Houston, abbiamo un problema. Apollo 13, failure is not an option, cioè il fallimento non è contemplato. E perché io ho tirato fuori lo spazio? Perché è interessante, perché oggi dovrebbe esserci il test semidefinitivo della nuova navetta spaziale americana. Si chiama Orion, assomiglia molto a quelle delle missioni Apollo negli anni 70, sbarco sulla Luna e così via. È un razzo che poi si trasforma in navetta. Gli americani ne hanno bisogno, perché da quando hanno abbandonato il progetto Shuttle, sapete chi trasporta gli astronauti alla stazione spaziale internazionale? La Soyuz. Di chi è? Dell'odiato nemico Putin. Siamo sempre lì. io segnalo, voglio bravo dire. Bravo Salamino. castagne, dopo il castagnaccio, ma ancora prima del presepe le occupazioni, quelle però con la doppia K, ed è sempre una questione di K o di lettera Q di quadro, perché non si capisce mai appunto come scriverlo, e occupazioni con le due K in fondo mi ricorda come vive la scuola con la lettera Q. Detto ciò, il sottosegretario alla pubblica istruzione Davide Faraone, ovviamente è una coincidenza, ovviamente è una coincidenza, perché il sottosegretario alla pubblica istruzione Davide Faraone, ovviamente è una coincidenza, perché qualcuno avrà aperto le stalle. Il sottosegretario alla pubblica istruzione Davide Faraone, chiudete le stalle per cortesia, come un crocetta qualunque, ha salutato la stagione delle occupazioni come, apro virgolette, esperienze di grande partecipazione democratica. Sulla parola democrazia apriamola la stalla, per favore. Ecco. Ecco, e poi dice pure, in alcuni casi sono più formative delle ore passate in classe. Cose turche, cose turche, cose proprio partorite dalla scienza piritolla. Quindi che li mandiamo a fare a scuola? Tutti in libertà, via. Apriamo le stalle, le stalle. Però canta bene. Canta bene. Allora, Maria Letizia Terrinoni, che è la preside del liceo classico Tasso, tra i più importanti della capitale, ha contestato Sua Eccellenza Davide Faraone con un argomento definitivo. Dice, in un paese che soffre un deficit di legalità, in un periodo come questo, la presa di posizione di Faraone è stata francamente troppo. Francamente troppo. Francamente poco. Perché le vie del piritollame passano certamente dalla voce dell'innocenza. È la ma sono infinite, quindi... A vostra eccellenza piritolla io dedicherei l'unico monito necessario per gli studenti: state buoni se potete. Chi sono questi? Angelo Branduardi. Branduardi, vabbè, No, nel senso che poi è anche pura preghiera. Certo, la fiera dell'est, vabbè. Intanto io vedo Sara Tardelli in agguato in regia. Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca. In questi giorni gli indiani d'America, sai Mario che a me piacciono queste comunità piccole, no? Lo so, dove ci sono i deboli ci sei tu. Esattamente. I deboli, hanno quelli ricordato... sono stati sconfitti, sono vinti, dai, nobilmente Pietrangelo, vinti. Su, hanno ricordato il massacro di Sand Creek, quando gli indiani furono assaliti a tradimento dal 3° reggimento dell'esercito americano. Morirono donne e bambini, tante donne e tanti bambini. Ma i nativi d'America ricordano da 150 anni anche il coraggio del capitano Sole e del tenente Kramer, due bianchi, perché hanno disobbedito agli ordini e si sono rifiutati di partecipare al massacro. C'è sempre un modo per opporsi alla violenza. Lo dico perché ieri, in pieno centro a Roma, alle 8 di sera, più o meno, ho assistito a un pestaggio. Un ragazzo più grande prendeva calci in testa uno più piccolo. Però sono intervenuta solo io, nessun altro ha mosso un dito, nessuno, e nessuno di quelli fintamente impegnati a mandare un importantissimo SMS ha pensato di chiamare la polizia. E invece c'è sempre un modo per opporsi alla violenza. In un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiori di stelle. Tardelli, madre coraggio. No, è stata proprio brava. Forte, davvero. Forte. Ha fatto una cosa importante. Mix 24. Allora, Buttafuoco, che come scrivono i nostri ascoltatori, come ha scritto Rudy, fai morire, Qual è il tuo canzoniere di oggi? Il canzoniere di oggi, posso dirlo? Ah, allora, il canzoniere di oggi, ancora una volta, per voce, per tramite di un grande attore, in un film che è pura poesia, ed è, vogliamo dare l'aiutino? Dallo, va, che non indovina mai nessuno. Il libro che ogni soldato conosce a memoria. Aia. Giorno dopo giorno stare con voi, seguirvi ovunque, conscio di ogni sorriso, di ogni movimento dei vostri occhi, di pensare fin troppo alla perfezione della vostra anima, di ascoltare la vostra voce, di sentirmi svanire di struggimento, quella immensa gioia che a me non è dato avere. Il mio tempo è breve, ogni giorno e ogni ora sono preziosi, eppure mi lascio vivere nella noia. Ogni giorno sarebbe un deserto se al mio risveglio non sapessi che quel giorno potrò vedervi sia pure per un attimo. Se soltanto conosceste le fiamme che bruciano in me e che io tento di spegnere con la ragione, ma è inutile. Non riesco più a lottare con i miei sentimenti. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS per chi vuole cimentarsi. E intanto ancora una bolla. Sì, sì, dai, dai. Bond. James Bond. Big day, grande giorno oggi, perché la Sony annuncerà stamattina, tra un po', ora di Londra, 11, l'inizio della produzione del 24esimo film di James Bond. Fantastico. Chi sarà il prossimo Bond? Chi sarà? Non si sa ancora. Ancora non, no, si sa. Niente, niente, è tutto segreto. E chi sarà la Bond girl? Chi vuole può vedere lo streaming dell'evento, della presentazione, tra qualche ora, sul sito 007. Io lo so chi è il prossimo Bond. Chi è? Il prossimo Bond? La Bond girl e la Littizzetto. E il prossimo Bond ovviamente Benigni, dopo Benigni, 10 cioè, comandamenti, certo. Dopo beh, aver massacrato la Divina Commedia, vuoi che non massacri pure anche Fleming? No, ti vi prego, Fleming è stato uno scrittore eccellente. Ce n'è un altro Salamino? Salamini di Fogne, la trasversalità della Fogna romana rende la vicenda emblematica proprio nella sintesi, e a quanto pare lo ascolteremo dopo, di Romanzo Capitale, che è il titolo del libro di Umberto Croppi. Esatto. Allora, in questa inchiesta tra narra e politica sbucano le figure del buonismo, quello sincero e democratico, accusate di orientare le scelte del tavolo di coordinamento nazionale sull'accoglienza per i richiedenti asilo. Allora si capisce che l'accoglienza paga, ma la storia è curiosa perché i compagni col K e i fascio criminali giocano a scopone, e perché Roma poi è una continua sorpresa. A questo punto si attende una svolta sui disordini di Tor Sapienza già dimenticati. Lasciamo la pagina aperta. Ah, a proposito. Emiddio Novi giustamente annota: la menzogna sui bimbi rom a cui Casa Pound impedisce di andare a scuola fu inventata niente meno che proprio da questa cooperativa rossa della cupola mafiosa di Roma. Ancora una volta, state buoni se potete. Amelia da Ragusa forse ha indovinato. Amelia, buongiorno. Buongiorno. Hai indovinato il nostro canzoniere? È un brano di un film tratto da Pushkin, Onegin. Onegin, giusto? Certo. Onegin, Feltrinelli. La pronuncia del russo. Come? Mi perdonerà Seki per la mia pronuncia del russo. No, è buttafuoco. No, quella, ma io ho un dispaccio da Mosca, se vuoi. Glielo dico subito. Ha bevuto poca vodka. Che cosa fa, signora, a Ragusa? Vuole la risposta renziana o la risposta vera? Secondo Renzi sono una freelance, secondo la realtà sono una disperata. Oh, grande! Potrebbe fare radio. Ah, sì, potrebbe fare radio. Venga, venga! Venga con noi. Venga a trovarci allora. Senz'altro. Feltrinelli. Grazie, Feltrinelli per lei. Grazie mille. Intanto a Ragusa capitano cose brutte in questo periodo. Ecco, noi tra poco, nella seconda, dopo il giornale radio, raccontiamo, l'ha un po' anticipato a Pietrangelo, raccontiamo la banda, la storia della banda della Magliana, che è all'origine un po' di tutto quello che sta capitando oggi a Roma. Marina Milone ha intervistato Umberto Croppi, appunto l'assessore alle politiche culturali del Comune di Roma, che è uscito dalla giunta di Allemanno, è l'autore anche di Romanzo Comunale, che anticipava un po' tutto, sentiamolo. Umberto Croppi, ex assessore alla cultura della Giunta Alemanno fino al 2011, quando venne estromesso dalla Giunta, autore del libro Romanzo Comunale, in cui si spiegano gli intrighi del Comune di Roma e i limiti dell'amministrazione Alemanno. Quello che legge sui giornali la sorprende? Non mi sorprende, perché appunto questo, che il quadro che viene fuori, al di là degli aspetti più criminogeni o criminali, su cui la magistratura dirà la sua e poi vedremo come andrà a finire, è il fatto che comunque è certo che ci fosse una rete di relazioni assolutamente bipartisan. Ecco, dopo il giornale radio naturalmente tutta l'intervista è il racconto della banda della Magliana. Per chiudere, un uomo che non sa dire addio, di Chiara Civello. Yeah.